Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay, dalla depressione alla felicità. Si tratta di un post del primo forum di Progetto Gay pubblicato il 2 giugno del 2008. Dedico questo post a uno dei ragazzi registrati su questo forum che ieri sera mi ha fatto vivere momenti di vero entusiasmo. Mi perdonerete se resto nel vago, ma la riservatezza è un obbligo fondamentale in un forum come il nostro. Con questo ragazzo che chiamerò X avevo già parlato ed è rimasto molto colpito dell'estrema serietà della sua partecipazione. Direi che fin dalla prima volta aveva avuto l'impressione netta che parlare avesse veramente un valore. Era alla ricerca di un confronto vero, una cosa che nulla aveva a che fare con un colloquio di cortesia. X era palesemente teso, stressato, non dal sentirsi gay, ma dal fatto che essere gay gli creava una marea di impossibilità e di limitazioni, soprattutto lo lasciava in solitudine, gli impediva ogni forma di colloquio serio. X mi ha raccontato la sua storia, una storia di illusioni grandissime, seguite da terribili disillusioni, una storia caratterizzata dalla ricerca frenetica di un contatto umano e dalla reale impossibilità di costruirlo. L'ansia si leggeva chiaramente nel discorso di X. Nei giorni successivi ho richiamato X su Messenger e abbiamo parlato un po'. Gli ho detto dei ragazzi di Progetto Gay e del fatto che con persone di quella levatura è possibile creare dei rapporti di amicizia autentici, seri. Poi, avanti ieri, ricevo un lungo messaggio da X, realmente angosciante. Era sconsolato, prostrato, deluso, non vedeva davanti a sé la minima prospettiva di confronto con altri ragazzi e capiva che avrebbe voluto sentirsi meno solo, che avrebbe voluto trovare degli amici. È evidente che per un ragazzo giovane anche io posso avere un senso, ma il rapporto con persone più o meno della stessa età è assolutamente prioritario. Ho risposto al messaggio di X insistendo su un concetto: non sei solo. L'indomani richiamo X, mi dice che è in chat con Y, un altro ragazzo del forum, una persona splendida. Più tardi X mi richiama e mi dice che si sente bene, che le malinconie non ci sono più, che uscirà e andrà a fare due passi perché si sente felice. Poi dice anche di me delle cose bellissime. Non posso negare che mi sono sentito gratificato in modo eccezionale. Parlare, stabilire un contatto umano e autentico con ragazzi che vivono esperienze analoghe, confrontarsi, sentire anche nel piccolo il rispetto e l'attenzione di un'altra persona, serve a tenere lontana la solitudine, a sentirsi inseriti in un mondo di affetti veri. Ma chi l'ha detto che i ragazzi gay cercano solo sesso? No, cercano un po' d'amore, un po' di rispetto, cercano un affetto che si manifesta in un sentirsi anche in chat, in un sostenersi a vicenda. Ieri sera avrei avuto tanti motivi per sentirmi a terra, ma parlare con X mi ha letteralmente ridato una carica di entusiasmo di cui avevo assoluto bisogno. Quando accadono cose come quelle di cui ho parlato, la soddisfazione è enorme. È in questo modo che si dimostra quanto sia sbagliata l'equazione gay uguale tristezza. Noi esistiamo e grazie a internet abbiamo la possibilità di sentirci e di parlare da ogni posto d'Italia e non solo d'Italia, e tramite internet si creano rapporti affettivi seri anche a migliaia di chilometri di distanza, si crea una comunanza di affetti, di sentimenti, si condivide la propria vita, il proprio quotidiano con la vita di tanti altri ragazzi e non più ragazzi. Ci si sente tutti sulla stessa barca. E sentirci uniti, sentirci insieme ci dà la possibilità di essere realmente quello che siamo, fuori da tutti gli stereotipi commerciali e mediatici. È così che si pongono le basi dell'equilibrio di una vita. Lo vedo dall'effetto che Progetto Gay ha prodotto nella mia vita, che è decisamente salita di livello perché ho conosciuto persone splendide che mi hanno dato la loro amicizia e mi hanno aiutato a vivere. Grazie, X, ieri mi hai fatto felice. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.